Friuli nel mondo. 151esima trasmissione dedicata agli emigrati. Piccola antologia friulana. Bello, sonoro, armonioso il friulano. I tanti scrittori di ieri e di oggi che lo usarono nelle loro opere di prosa e di poesia hanno dimostrato come esso si pieghi mirabilmente a rendere tutte le sfumature, anche le più sottili, dei sentimenti. L'odierna trasmissione vuole essere una piccola antologia e, come ogni piccola antologia, ha scelto fior da fiore dal ricco e vario repertorio della letteratura di casa nostra. Eccovi dunque un breve componimento dovuto alla penna di Riedo Puppo. Con esso l'autore ricorda, con tanta melanconia, la fine di un'antica tradizione di Fagagna, la corsa degli asini. La ultime barele. Feagne si sarà fatto un nom, io no dis, cui soi gran chioms, cui sos fabricis, cui soi cipress, cui soi artisti ingegnos, cui sos bielis frutis. Ma questi a son prodots che c'è plui c'è mancul, bondanz o schiars, si chiati un po' perdut. Ma chei che fin cumò, e han spandut a lunghe a l'arc il non di Feagne, chei che han fatto di queste cittadine così biele, così legre, così simpatiche, une picciule capitale dal Friul, a son stats i mus. Nessun è proloco, nessun sindic, nessun parlamentare arriverà mai ad ore a fa par Feagne c'è che han fatto i mus. Puntuai ogni anno, quando che la UE cominciava a dì di cambiare color e la fue dai platanos a palombi si sovvie, i mus aspiciavin di sorelis e si inviavin di ogni bande quintre Feagne. E par 70 anni, la maravigliosa siarade furlane fisse di sagris e di bielis compagnis e cominciò con la corsa dai mus la prima domenica di settembre sulla più biele culine dal Friul. Non lo facevin per glorie pueris bestis, perché che i mus noi tenin ai titui come i cristians. Di fatto, una volta arrivato sul martià, qualchidun anche non correva. Allava in denanta passa pass, cence nanti a badal traguard, cence scomponisi pescoreadis dal cocchio, tialan di cai di là, lis musis plui bielis e la int. Content nome di essi tornati mo una volta a Feagne. Cumò alle finit. Il martià di Feagne al diventerà una place moderne come mille altris, une place nette, illuminate, plene di marbui, di bars, di pietre artificiali. E non si sinterà più da quel giardin, il non dai mus riva springs, Fulmin, Sputnik, Missil, Leo, il non dei crani mus di Pozzalis, di Bataille, di Chiauriat, di Spilimberg, un poco alla volta al sarà dismenteato. E nessun vi darà sfilapa al paese, i grandi campions con le sorelle stretis e la cro sulla schiena, gli unics vers campions restats purs in tutto il mondo al sport, gli atletas che guadagnavin onestamente la vittoria cence comprale cui milions, che non si intoseavin di simpamine, ma si contentavin di qualche pugn di vene o di une sope di vin. Gli ultings, authentics dilettanti, così sensibili e riguardos, che aveva in cur di mandare a farsi foti la vittoria e la gloria, par dà la precedenza a une biele musse braurine. Vue e ancurut per ultime volte, e cumò a partisi. Tirai in bande, e saludai col chiapiel in man, e i fantins che non si inchiocchin vue, e che noi uscorei, e i zovenoz che non ursetin in torcu la moto, e che nessun ursbreghi lis bandieris, i ciufs e lis decorazions. Ale un slambre di Friul calmurue a Feagne e si slontane par sempre con la ultime barele. La storia di una pastoria di Giso Fior dipinge la semplicità, l'amore e la fedeltà di una giovane pastorella carnica. La storia da pastoria. Oh pastoria, pastoriuta, ce faseiso tutt'al dì. I passoni la spierutas, prim e dopo di misdì. E sot sera ce faseiso. I fas fug sul fogolar, e i prepari la polenta, pa' i pastors e pa' il fedar. E di gnò, c'è mai faseso? Oh, di gnò, na pos dormì, e preant, va in parnino, mi par sempre di morì, e qui l'eria poche snino. Sior, all'era il mio fantat, alle muart laiù tas grecias. Ecco, us mostri il suo ritrat. Oh, c'è biel fantat, pastoria. Al faseva il prim pastor, e una di mi ha domandata, a lassù, sun che il gador, a mia dat stella salpines, tolta su d'in somblamont, e mi ha detto, chi lo riguardi, sal restà scopata al front. Oh, pastoria tan sinceria, non svulvio di voi bagnaz né in chianino, cavustiala di lassù, fra mil beaz. E saveso, pastoriuta, voi così, noves di sta, così biela, così buina, i sei sfata paramà. Dal prim viaggio che usai io duda, mi sei detto, ecco, che chi? Si us voles come murosa, mi diresti so di sì. Oh, no sai, sciorù, lasciami, e tornai ca su n'altran, che si na domandi nino, al ponascimi un malan. Dopo un anno, il sior al torna, e alla chiata sul chiampei, cacì rosas di ches rosas, par infloquetai gli agnei. Che la vost si son sposats, e in avril han avuto un flor, e che il flor si clama Nino, come il nom del prim pastor. Ascoltate un breve componimento che ricorda l'emigrante del poeta Eddie Bortolussi. Stagion, disore te chiamare, anche che stan li svalisi se son prontis, plenis come ugnan, culi stasutis de robe così de lavade, robe mitude fruiade la vie palmont. Une man di squindon e appoiat, trimant, quattro milus di vignal rusins e bons, piardust un chianton, dongi el spali dal plom, cul mani de chiace, el slusi dal martiel. La mari, pestiale, e va sempre cidine, cui sciei scarpezza ponte, neris, divilù, e viars la vitrine, poi siar un scansel, anche il socur al sisiare con quel. Ma c'è isalmo che spartica l'ingrope, che ste smare che si sinta l'ultim salut, che ste sgrife sul cure, che struscli che gli emple la bocchia tal queste peraule. Ah, partì de vandì paltroi de taviele, sfantan l'izer ste rosade de gnot, cul chiantantig dal tilimento al cur, fer come la luz dal mont che si lasse. Ed infine un quadretto di patriarcale semplicità di Riedo Puppo dal titolo Il Crist di Quilin, in cui si specchia la dura vita quotidiana di un uomo che vive solo, in una casa isolata, a contatto con la natura e in compagnia di un Cristo che lui stesso ha modellato sul legno e che onora con un fiore quotidiano. Il Crist di Quilin. De chiue, la strada va iù a plom quintri colore, e quasi non si viodi le talmies dei cocolars e de sacazis, e gli enfri li smurais altis dei roncs. Sul volt alle un Crist, e lì, donge dal Crist, e iere la chiase di Quilin. Un chiasal cul poc talmies dal curtil, i chiozzi in rie d'ogne dall'edan, e il pedrat di clapons grand, fruiaz par zore vie, de tante aghe de strezearis. Altri schiasis non dere li a tor. Li splui d'ogne, appena appena si viodevilis de bande dal chistiel, e sod vie de culine dei tre roi. Ma Quilin non gli ere contenta al puest. al diseve sempre che salveve timpa vivi, alveve di fassù ne chiase nove più lontan, donde il bos di Lauciane, parce che lì, e ieri masse disturbate. Va di, par vie desrogazion salacor, al diseve. Vie peanade, non passava di che bande nanti un chian, ma al di San Marc, quando che si fermava lì la prima erogazion, la croserute dal Crist si emplave di int, e i frutti de Nant arrivavano fin a Red de Lobie, e intanto che il plevan al benedive la campagne e all'alciava il Crist dos tre volte dome quintrimo dot, parce che parlà aven simpri la tampieste, i frutti si rimpinavano sulla spice dal tamon, che jesive pe balconette dall'aria, e auciavin il chian calvagnave come un lof. Quilin urvaresti rad di curne sclopetade, se non fostat par rispied dai due Cristi, il so gran che il de Crosere e il picciul quel che il plevan al portave a tor per benedì i chiams e gli stradelis. E quando che l'isrogazion si tornavin a movisi, quilin si consolave e al chialave a lung la inta slontanasi quintri borg piorar e poi sparì chiantando gli slitaneis gli enfri gli sacacis di Calisto. E il chian, un poco alla volta, al fermave di Uagnà, e biel planca al tornave agli entrata al cusso. Allora Quilin agli sive e all'ave a ispezione al Crist, se la inta aveva indissipato il siaraud di palezza tor a tor, se aveva istrucchiato il vasù des roses. L'aveva fatto lui che il Crist, Quilin, di len stagionat sul tune cros di ciamar e poi murat lì sul volt t'un clapon più grande un fogolare. E sovvie al tignive svangiato un stroput pes rosis, e a red dai pis dal Crist, sul clap, alvevemi tutto un bossul di granate, simpri con tune rose dentri o con tune rame di ver. Quilin non l'ave inglesie, parvie che lui al voleve veda fa cul paron, no cui fatos al diseve. E il paron, il Crist, lui l'uveve lì, fur de puarte de chiase. Così al trattave direttamente con lui, a tu par tu. Ma al tignive Quilin la contabilità. Da e vedi ve. Un erose al Crist e tantis blestemis perdonadis. Un gloria patri e tantis fiestis di poder lavorare. Un inchin e tantis chiocchis dismenteadis. E da ur la sua contabilità, al fonga l'antom. Non fase male a nessun. Iuste il plevan al chiatace di, parvie che Quilin, applicanti il suo criteri contabile, al crode simple di poter sparagnare il quartes, cunt un salut di chiapiel al Crist. Il plevan però non stentai stes no. E Quilin, condute la sua culumie e il suo tignicont, non arrivà a fare la chiase gnove. Al continua simple domme a porta d'ogni clas, fin cagliere vecchion, e uno spindi nanti un carantan. All'ave a tosarsi sul vecchio di lune, par che noi crescessi i chiavei. Dopo cene, arribatinave anche i plaz par no spindi, e al vendeve falchiars e tamons. Iu selgeve tal bosc di picciui, ioi e i mulex che avevin la sagome iuste, e iu spietave che crescessi, e alveve la schiale dal toglat plene di manis informe. Si immalà une volte sole, iuste par morì, e tagliet al faseve anche lì museuz di fil di fiar pa' i vidiei. Quando calfota gli ultims, il plevan al domandà di viodilu, e le donne planchin planchin. Quilin alzava riave, ma quando calvin in sé e al cognosè il predi, non lo para vie, e nanche non lo clama il fator. Signor plevan, gli disè, che i puarti un'erose al Crist, o hai sbagliato i conti, o hai lasciato fuori un'esornata di blestemis. Il plevan al moladù, al chiapassù un macè di rosis, di corse, e li sportata al bossul di granate, sottipis dal Crist sul clap. Poi al torna sotto un salt, e al chiatà Quilin, che si segnava, e arriva giuste a benedilu. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, a cura di Ermete Pellizzari, dizioni di Ottavio Valerio.